Des yeux qui font baisser les miens, un rire qui se perd. Molti anni prima che Sartre morisse, il suo corpo cominciò a cedere alla vecchiaia. Un'estate gli venne un terribile dolore alla lingua. Non poteva né parlare né mangiare senza soffrire. E camminava anche con fatica. Gli dissi: è proprio un brutto anno questo. Avete sempre disturbi. Non importa. Quando si è vecchi, uno non ha più importanza. Il suo tono mi sconvolse. Sembrava già sull'altra sponda della vita. Era diventato indifferente, era triste o assente. Tornava allegro quando facevamo le nostre interminabili discussioni con Sylvie. In amore, tutto quello che vale per me vale per l'altro. Mentre io tento di liberarmi dall'influenza dell'altro, l'altro tenta di liberarsi dalla mia. Allora, mentre io tento di soggiogare l'altro, l'altro tenta di soggiogare me. Perché allora l'amante vuole essere amato? Se l'amore fosse solo puro desiderio di possesso fisico, nella maggior parte dei casi potrebbe essere facilmente soddisfatto. Quindi l'amore vorrebbe imprigionare la coscienza. È il fatto di appropriarmi di un altro che mi fa esistere. Quindi è della sua libertà che voglio impadronirmi. Ma chi vuole essere amato non desidera che l'amato sia un automa. Si sentirebbe sminuito, umiliato a possederlo così. Ah, certo, si ritroverebbe solo. L'amante pretende un tipo speciale di possesso. Vuole possedere una libertà in quanto libertà. Ma non può essere soddisfatto solo di un impegno preso, anche se liberamente. Chi accetterebbe di sentirsi dire ti amo perché mi sono liberamente impegnata ad amarti, ti amo per fedeltà a me stessa? E infatti l'amante chiede il giuramento, ma nello stesso tempo si irrita del giuramento. Lui vuole essere amato, per così dire, da una libertà che pretende che non sia più libera. E questo non solo all'inizio, ma ad ogni momento. Sì, l'amante esige che questa libertà si imprigioni da se stessa, come nella follia, come nel sogno, che voglia la sua prigionia. Quindi questa prigionia deve essere libera rinuncia alla libertà. Incatenamento nelle nostre mani. Sì, ma d'altra parte l'amante non pretende di essere la causa di questa modificazione di libertà. Vuole solo esserne l'occasione unica, privilegiata. Perché nell'amore vuole essere tutto il mondo per l'amata. Sì, vuole essere scelto come fine, ma come fine già scelto. Quindi vuole essere al sicuro nella coscienza dell'altro. Se l'altro mi ama, io divento il fine assoluto, l'insuperabile. Ma allora che cosa significa voler essere amato? Volersi come fondamento oggettivo di ogni valore. Infatti l'amante esige che l'amata gli sacrifichi la morale tradizionale. E vorrebbe sapere se l'amata tradirebbe i suoi amici per lui, ruberebbe per lui, ucciderebbe per lui. Io devo essere la condizione del sorgere del mondo. Devo essere colui la cui funzione è far esistere gli alberi, l'acqua, le città, i campi e gli altri, per poi donare tutto questo al partner che li dispone nel suo mondo. Invece di essere una creatura che si stacca dallo sfondo del mondo, io, come essere amato, sono l'oggetto sfondo dal quale il mondo si stacca. Così sono al sicuro. Lo sguardo degli altri non ferma più il mio essere in ciò che sono, semplicemente. Sì, sì, questo è nel vostro saggio filosofico l'essere il nulla, ma nei vostri drammi, come nella vita, gli amori vanno anche diversamente. Per esempio, nel Diavolo e il buon Dio, il comportamento di Caterina per Goethe. Sì, sì, eppure anche in quelle scene c'è, attraverso l'altro, la ricerca di una giustificazione di esistere. Vieni, voglio fare l'amore. Che hai? L'angoscia spinge all'amore. Su, vieni. Eccomi, sono tua. Ma prima dimmi che ne sarà di me. Ma che ne so, quello che vuoi tu. Portami con te. Ci saranno le volte in cui avrai bisogno di una donna. Quando verrà il plenilunio, quando dovrai prendere una città e avrai l'angoscia e ti sentirai in fregola. Una donna vale l'altra, i miei uomini me ne portano a dozzine. Io non voglio. Posso essere 20 donne, 100, se lo desideri, tutte le donne. Prendimi in sella, non peso. Il tuo cavallo non si accorgerà di me, voglio essere il tuo bordello. Che ti prende? Vattene! Mi vergogno per te. No, no, non ti amo, io te lo giuro. E anche se ti amassi non lo sapresti mai. Che ti importa che una ti ami se non te lo dice? Io non voglio essere amato. Se tu mi ami sei tu che godi. Vattene, porca. Non voglio che ci si approfitti di me. Gitz, non mandarmi via! Avevo 11 anni quando scrissi una prima piccola stesura di un Goethe von Berlichingen, quell'eroe violento che fa regnare il terrore e subito dopo aspira al bene assoluto. Come scrivete per il teatro? Lavoro su un soggetto, poi lo metto da parte. Trovo frasi e battute e le annoto. La cosa assume una forma più o meno complessa, ma in seguito la semplifico e a quel punto non incontro grandi difficoltà. È una conversazione tra persone che si buttano in faccia tutto quello che hanno da dirsi. Ma oggi non scrivo più commedie, è finita. Perché? In teatro succede sempre qualcosa di urgente. I personaggi arrivano, dicono buongiorno, entro due o tre scene saranno intrappolati in una questione urgente, il pubblico lo sa benissimo, dalla quale con ogni probabilità usciranno malissimo. Ma è una cosa che nella vita capita di rado. È l'urgenza degli spettatori, che vogliono sapere se Goethe morirà, se sposerà Hilda o Caterina. Il teatro mette sempre in una sorta di urgenza quotidiana e io sono vecchio. E i vostri rapporti con le donne? A 6-7 anni avevo già delle fidanzate. Ad Arcachon ho amato molto una ragazzina che è morta l'anno dopo. Era tisica. Io le facevo delle movine, lei rideva beata, le avevo anche scritto dei versi. Mi sedevo a fianco della sua poltrona a rotelle e declamavo. E quando siete stato più grande? A 10-12 anni? No, mi interessavano solo le amiche di mia madre. Provavo un sentimento di natura abbastanza sessuale anche per mia madre. A 14 anni ebbi una mastoidite e sono stato operato in ospedale. Mia madre si fece sistemare un lettino vicino a me e la sera quando mi addormentavo lei si spogliava e io facevo finta di dormire, socchiudevo gli occhi per vedere attraverso le ciglia e la contemplavo spogliata. Il mio piccolo amore si lascerà mettere le goccine nel naso senza fare storie. Mio padre è morto prematuramente, non so se fu un male o un bene. Mia madre era piuttosto una sorella maggiore per me. Ti ricordi ieri dalla guantaia? Ah sì, che l'hai chiesto dei guanti di camoscio verde. Lei si affannava a cercarli. Ma tu gliel'avevi chiesti così per ridere. Non potevo neppure guardarti, tanto che mi veniva da ridere. Era sempre così fra noi, come due coetanei. Lei era la mia compagna di giochi. Io non sapevo ancora leggere. Pensate, e mio nonno mi regalò due libri di racconti per l'infanzia. Io ho preso i volumetti, li annusai, li palpai, li aprì facendoli scrocchiare. Tentai di trattarli anche come bambole, li cullai, li baciai, ma non ebbi successo. Allora, quasi in lacrime, finì col posarli sulle ginocchia di mia madre. Che cosa vuoi che ti legga, amore? Le fate. Le fate? Ma sono là dentro, domandai, incredulo. Mia madre prese un libro, lo aprì, si chinò, abbassò le palpebre e cominciò. Sembrava addormentata. C'era una volta un povero boscaiolo che abitava in una casetta in mezzo alla foresta. Ogni giorno da la moglie volto del boscaiolo di statua usciva una voce gessosa. Tutta la famiglia. Io persi la testa. Era composta, ma oltre che da lei e dal marito. Che cosa raccontava e a chi lo raccontava? L'ultima mia madre si era fatta assente, non un sorriso, non un segno di connivenza. Io mi sentivo in esilio. Con gli occhi azzurri, mentre quelli dei fratelli erano scuri, e dai lunghissimi capelli d'oro non inanellati e splendenti. Non riconoscevo il modo di parlare di mia madre, ma dove la prendeva quella sicurezza? Un giorno si presentò alla porta della casetta una vecchina dall'aspetto miserabile. Era il libro a parlare. Implorava un pezzo di pane. Mi uscivano fuori frasi che mi facevano paura. Erano autentici millepiedi, gorgogliavano di sillabe, e con un meraviglioso sorriso distendevano di tonni, facevano vibrare le doppie consonanti. Erano melodie, tre rosse pesche mature, intervallate di pause, di sospiri, ricche di parole sconosciute che si incantavano di se stesse, dei loro meandri, senza preoccuparsi minimamente di me. Una bellissima creatura dalle vesti sontuose. Toccò la bionda fanciulla con la bacchetta magica e le disse: sei stata buona e avrai nella vita tutto quello che vorrai. Poi sparì e la fanciulla rimase estatica a guardare l'aria con la sensazione di aver fatto un sogno. E quando smise di leggere io le ripresi in fretta i libri e me li portai via sotto braccio senza neanche dire grazie. Ero geloso di mia madre. Decisi di soffiarle la parte. Chiuso in uno stanzino facevo finta di leggere. Seguivo con gli occhi le righe nere senza saltarne una. Mi raccontavo ad alta voce una storia inventata, facendo attenzione a pronunciare tutte le sillabe. Mi sorpresero e decisero che era venuto il momento di insegnarmi l'alfabeto. Diedi l'assalto all'umano sapere. È stato questo a formarmi. Quando è che siete andato a letto per la prima volta con una donna? Al liceo. Era al liceo con la moglie di un medico, una donna che veniva da fuori Parigi. Un giorno, non so perché, venne a prendermi al liceo. E così dormite in collegio? I miei non abitano qui e se voglio frequentare il liceo devo alzare in collegio. È un vero peccato. Ma non uscite mai? Il giovedì e la domenica pomeriggio. Oggi è venerdì. Vi aspetto dalla signora Chadel domenica alle 2. Io accettai, senza capire bene. La signora Chadel era la madre di un nostro compagno ed era amica di quella donna. E ci andaste? Ci andai. E lei mi fece capire che potevamo andare a letto insieme. Quanti anni aveva? 30. Io 18. Sì, ci andai senza troppo entusiasmo perché non era molto bella. Però non era male. Un po' alla volta me la cavai. Lei sembrò contenta. Ritornò? No, mai più. Forse allora non era rimasta così contenta. Doveva ripartire il giorno dopo. Se l'ha messa in mente di fare la mondria con me. Io non ho mai capito perché. Non ho mai saputo niente di lei dopo. E ci sono state storie con ragazze in quegli anni? Io mi incontravo con dei compagni di scuola a Luxembourg il giovedì. Loro si vedevano con delle ragazze del quartiere Saint-Michel, in particolare con una figlia di un bidello. Le palpavamo un po', poi quasi tutte ci davano appuntamento in qualche camera, noi ci andavamo a letto. Mi ricordo una ragazza con cui ebbe un incontro, era carina, doveva avere 18 anni, si faceva portare a letto facilmente. Una relazione? No, ci andai una volta sola. Ma fu gentile con me anche dopo e quindi non l'avevo delusa. No, non cercava niente di diverso da quello che le davo. Le piaceva così, ma per tutti noi succedeva così, in quel modo all'epoca. E perché la cosa per voi ragazzi non andava mai avanti? Ma noi per quelle ragazze nutrivamo una specie di disprezzo. Perché? Pensavamo che una ragazza non dovesse darsi a quel modo. Ah, bene, a quel tempo allora avevate una morale sessuale divertente. Beh, le confrontavamo con le giovanette borghesi, figlie delle amiche delle nostre madri, con le quali non si andava al di là di un bacio, seppure ci si arrivava. Vi pareva disdicevole? Sì, non proprio disdicevole, ma... E quando avete abbandonato la sciocca idea che le ragazze che fanno l'amore liberamente siano più o meno delle puttane? Oh, molto presto, dopo essere andato a letto con qualche donna per un po'. No, è successo soltanto al liceo. E poi c'è stato il rapporto con Camille, che divenne la mia fidanzata. Questa storia la conosco bene. E anche i rapporti con le studentesse della Sorbona. E poi c'è stata la nostra storia, che è una cosa un po' diversa. Sì. Quando ci siamo conosciuti mi avete subito detto di essere poligamo e che non avevate l'intenzione di limitarvi a una sola donna, ad una sola storia. In queste storie che cosa vi attraeva? Boh, cose così. Cioè? Le qualità più serie che io potevo chiedere a una donna, secondo me, le avevate voi e di conseguenza le altre ne erano esentate. Per esempio, potevano essere soltanto belle. Voi avete rappresentato molto di più. E che cosa vi interessava in particolare in quei rapporti? Mi piaceva ritemprare la mia intelligenza immergendola in una sensibilità. Ah sì, certo, i rapporti sessuali erano d'obbligo, io però non vi attribuivo grande importanza. Ero più un masturbatore di donne che un attivista del coito. A coinvolgervi non è mai stato il desiderio puramente istintivo. No, mai. Era piuttosto quello romantico. Sì, sì, un romantico indispensabile. Possedere donne sensibili per fare della propria sensibilità una sensibilità femminile. Ma provavate un senso di incompiutezza senza una donna? Ah sì, per me una vita normale implicava un rapporto costante con la donna. Un uomo si definiva sia per quello che faceva e che era, sia per ciò che diventava attraverso la donna che stava con lui. Intendete le donne con cui avevate dei rapporti? No, con le donne io vivevo all'interno di una storia, di un mondo, ma il mondo eravate voi. Come sarebbe a dire? Il mondo io lo vivevo con voi. Mio bel Castoro. È questo il nome che mi avete sempre dato. Sono salito con questa bellissima ragazza nella mia stanza per prendere un vestito da far pulire a secco. Ipocrita d'un ometto, dirà il buon Castoro. Buon Castoro, no, ero puro, lo giuro. È capitato perché doveva essere così. L'ho baciata sulla guancia e lei mi ha baciato sulla bocca. Le ho tolto la camicetta e lei si è tolta la sottana e le mutandine. Sono andato con letto con lei. Mi ha detto che mi amava e io non ci ho creduto affatto. Le ho detto che l'amavo molto e lei ci ha creduto. Mi ha detto, ho provato quasi piacere. L'ho riconsegnata nelle mani di suo marito e ho preso il treno. In treno ho letto un libro sulla teoria tedesca del valore. Scemo, ma con qualche informazione. Ecco tutto, dolce Castorino mio. Ho trovato un mucchio di lettere vostre a Parigi. Date l'impressione di essere così felice. Amo tanto le vostre piccole attività di persona sola. Voi che passeggiate, voi che leggete, voi che bevete a volte il vostro quarticello di vino. Vi amo. Ho grande fretta di rivedervi. Con le altre donne Vivevate in mondi che erano all'interno di quel mondo che vivevate con me. Sì, era così. Così era questo a costituire l'inferiorità di quei rapporti. Perché esistevano i nostri. Sì. Una delle vostre aspirazioni era rivelare agli altri la verità del mondo. Ah sì, uno scrittore ha un unico soggetto, ed è il mondo. Ma certi ci arrivano passando attraverso se stessi, parlando delle loro esperienze. Io non scrivevo su me stesso, ma non lo so perché. Comunque si trattava sempre di me. Ma il fine non era quello di rappresentare me. Era il mondo ad essere colto attraverso di voi. Sì, ad esempio il soggetto della nausea è prima di tutto il mondo. Una rivelazione del mondo e di quella dimensione del contingente cui tenevate tanto. L'essenziale è la contingenza. Esistere è essere lì, semplicemente. Gli esistenti appaiono, si incontrano, ma non li si può mai dedurre. Qualcuno ha cercato di sormontare questa contingenza inventando un essere necessario, causa di sé. Ma nessun essere necessario può spiegare l'esistenza. L'esistenza è una contingenza, e la contingenza non è un'apparenza, è l'assoluto, quindi perfetta gratuità. E tutto è gratuito. Questo giardino, questa città, io stesso. E quando vi capita di rendervene conto, vi si rivolta lo stomaco e tutto si mette a fluttuare. Ecco, la nausea. L'esistenza non si lascia pensare da lontano. Vi invade bruscamente, si ferma su di voi, vi pesa sullo stomaco come una grossa bestia immobile. Altrimenti non esisterebbe più nulla. L'esistenza è un pieno che non si può abbandonare, un'enorme presenza, ed era lì, lì, posata sul giardino, mollissima, impiastricciava tutto, densissima, una mostarda. E io ero lì dentro, con tutto il giardino. Avevo paura, ma ero soprattutto arrabbiato, era una cosa così stupida. Io lo odiavo, quell'ignobile marmellata. Invadeva tutto, fino al cielo, tutto riempiva col suo abbraccio gelatinoso il giardino, le case, Beauville. Era il mondo. Il mondo, nudo e crudo, che si mostrava ad un tratto. Non c'era alcuna ragione perché questa larva strisciante esistesse, ma non era possibile che non esistesse. Era impensabile. Per immaginare il nulla occorre trovarcisi già nel mondo, da vivo. Il nulla è un'idea, non viene prima dell'esistenza. Ho gridato: che porcheria! E mi sono scrollato per sbarazzarmi di questa cosa appiccicosa, ma ce n'era tanta, tonnellate e tonnellate d'esistenza. Io soffocavo in questa immensa noia, e poi d'un tratto il giardino si è svuotato come per un gran buco. Il mondo è sparito allo stesso modo come era venuto. Oppure mi sono risvegliato, in ogni caso non l'ho visto più. Allora mi sono alzato, sono uscito e, arrivato alla cancellata, mi sono voltato. E in quel momento il giardino mi ha sorriso. Io ho guardato a lungo il sorriso degli alberi, degli allori. Questo voleva dire qualcosa? Era questo il vero segreto dell'esistenza. Vi riuscì di scriverlo a 30 anni? Sì, fu un bel colpo, non lo nego. Per me scrivere fu per molto tempo chiedere alla morte, alla religione, di strappare la mia vita al caso. E a 30 anni mi riuscì questo bel colpo di scrivere nella nausea, sinceramente, voi lo sapete, l'esistenza ingiustificata. Io ero Roquentin. Annie è venuta ad aprirmi con un lungo vestito nero. Naturalmente non mi tende la mano, non mi dice buongiorno. Per sbarazzarsi delle formalità dice... Entra, siedi dove ti pare. Salvo la poltrona vicino alla finestra. È proprio lei. Lo stesso viso scontroso che in passato le dava l'aria di una ragazzetta. Ma non sembra più una ragazzetta. È grassa, ha un petto voluminoso. Perché ridi? Annie non risponde subito come al suo solito e assume un'aria di provocazione. Di, perché? È per via di quel sorriso che hai inalberato da quando sei entrato. Hai l'aria di un padre che ha maritato la figlia. Avanti, non restare in piedi. Posa il soprabito e siedi. Sì, lì, se vuoi. Perché mi ha fatto venire? Questo silenzio è insopportabile. Sono contento di vederti. Lo sapevo che il primo quarto d'ora sarebbe stato penoso. Dunque non sei cambiato per niente? Sempre così sciocco. Tu sei un paracarro, Un paracarro al margine di una strada. Ecco perché ho tanto bisogno di te. Bisogno di me? Ma tu hai avuto bisogno di me durante questi 4 anni che non t'ho vista? Beh, allora sei stata proprio discreta. Mi sento sulla bocca un sorriso falsissimo e mi trovo a disagio. Non ho affatto bisogno di vederti, se è questo che vuoi dire. Lo sai, non hai niente di particolarmente gradevole da guardare. Io ho bisogno che tu esista, che non cambi. Sei come quel metro di platino che si conserva non so dove. Non credo che nessuno abbia mai voglia di vederlo. Ma io sono contenta di sapere che esiste, che misura esattamente la decimilionesima parte del quarto del meridiano terrestre. Ci penso ogni volta che si prendono delle misure. Ah, sì? Ma ho pensato a te molto più spesso che al metro di platino. Non c'è stato giorno in cui non abbia pensato a te. E mi ricordavo anche ogni particolare del tuo aspetto. Osa dire che tu ti ricordavi la mia faccia. Questa è malignità, tu sai che io non ho una buona memoria. Tu mi avevi completamente dimenticata. Mi avresti riconosciuta per strada? Ma certo, non è questo. Hai visto, sono ingrossata, invecchiata. Bisogna che mi curi. Ho recitato a Londra, in un teatrino a Soho Square. Abbiamo dato l'imperatore Jones e Britannicus. Britannicus? Sì, per questo me ne sono andata. Avevo dato io l'idea di mettere su Britannicus e hanno voluto farmi fare la parte di Giulia. Ma io non potevo fare altro che la parte di Agrippina. E adesso che fai? Ho fatto male a chiederglielo. La vita si ritira completamente dal suo viso, però risponde subito. Non recito più. Viaggio. C'è un tale che mi mantiene. Oh, non ti preoccupare, non è una cosa tragica. Ti ho sempre detto che mi sarebbe stato indifferente farmi mantenere. D'altra parte è vecchio. Non è un tipo che dà fastidio. È inglese? Ma che cosa ti importa? Non dobbiamo parlare di lui. Non ha nessuna importanza, né per te, né per me. Vuoi un tè? La sento andare e venire, muovere casseruole e parlare da sola. Ora devi parlarmi di te. Questo mi ricorda che le sue domande mi imbarazzavano molto. Perché ci sentivo un interesse sincero, insieme al desiderio di farla finita al più presto. In ogni caso, adesso vuole che parli di me. E tra poco parlerà di sé. Io mi sopravvivo. A che scopo prenderla tra le braccia? Non posso niente per lei. È sola, come me. Di colpo non ho più nessuna voglia di raccontarle niente. A che scopo? La nausea, la paura, l'esistenza. È meglio che lo tenga per me. Tutto questo. Che cosa stai borbottando? No, niente, pensavo. Beh, parla o sta zitto, ma deciditi. Restiamo in silenzio. Ho la penosa impressione che non abbiamo più niente da dirci. Ancora ieri avevo tante domande da farle. Dove era stata? Che cosa aveva fatto? Chi aveva incontrato? Annista di fronte a me. Non ci vedevamo da 4 anni e non abbiamo più niente da dirci. Adesso bisogna che tu te ne vada. Aspetto qualcuno. Inglese? No, un tedesco. Un pittore. Questo non è come noi. Non ancora. Lui agisce, si prodiga. Quando ti rivedo? Non so. Parto domani per Londra. E credo che dopo andrò in Egitto. Può darsi che ripassi da Parigi l'inverno prossimo. Ti scriverò. Domani io sono libero tutto il giorno. Ma io ho molto da fare. Non posso vederti. Ti scriverò dall'Egitto. In fondo so benissimo che non mi scriverà. Magari è l'ultima volta che la vedo. Non sono soltanto costernato di lasciarla. Ho un'orribile paura di tornare alla mia solitudine. Perché mi baci? No. Non mi interessa più. Non si ricomincia. E poi, d'altra parte, per quello che se ne può fare della gente. Il primo venuto, un bel ragazzo, vale quanto te. Allora devo proprio lasciarti dopo averti ritrovata? No, non mi hai ritrovata. Poveretto. Non ha fortuna. Per la prima volta che fa bene la sua parte, nessuno gliene è riconoscente. Su. Vattene. E pensare che avevate paura che ve lo rifiutassero la nausea. Beh, molti buoni libri sono stati rifiutati nella storia della letteratura. Per voi la nausea è un capolavoro? No, non è un capolavoro, però è un genio colui che l'ha prodotto. Voi distinguete il genio dall'intelligenza. Non vi considerate particolarmente intelligente, ma avete come l'idea di una missione. Una volta ho trovato molto giusto una cosa che mi avevate detto. In fondo, l'intelligenza è una necessità di non fermarsi e di andare avanti, sempre più avanti. No, adesso non lo direi in questi termini. Io non penso che in me vi sia una qualsiasi superiorità. Sì, la mia superiorità sono i miei libri, nella misura in cui sono buoni, ma anche un altro ha la propria superiorità. Può essere la superiorità il cartoccio di caldarroste che vende d'inverno sulla porta di un caffè. Ciascuno ha la propria superiorità. Io ho scelto quella di scrivere. Il mio bambino diventerà professore. Giovane, giovane, un prodigio. Andrà ad insegnare al liceo e i suoi allievi saranno affascinati dal suo modo di parlare. E finite le lezioni, il mio bambino tornerà nella sua bella camera e si metterà a scrivere, perché il suo compito è quello di scrivere capolavori per l'umanità. Si metterà a scrivere, a scrivere, a scrivere, mentre tutti dormono. La padrona di casa, gli studenti, gli abitanti della piccola città, il mondo intero dorme, ma il mio bambino scrive. Che solitudine, 2 miliardi di persone a dormire e io a scrivere. Ma che cosa state facendo? Con i fiammiferi? No, niente. Stavo cercando di rivivere una sensazione di tanti anni fa. Da bambino un giorno, mentre giocavo, diedi fuoco al tappeto del salotto. E allora cercavo di truccare il misfatto per non farmi sgridare dai miei, quando all'improvviso Dio mi vide. Dio vi vide? Sì, sentii il suo sguardo all'interno della mia testa. Cercai una scappatoia nel bagno, ma mi sentivo orribilmente visibile. Era inutile tentare di nascondersi. Mi salvò la rabbia. Divenni furibondo contro un'indiscrezione così grossolana. Bestemmiai come mio nonno, per Dio! E lui non mi guardò più. Oggi, quando me lo nominano, ne parlo come un vecchio donaiolo che senza rimpianti si rivolge a un'antica fiamma incontrata per caso, dicendole: 50 anni fa, senza quel malinteso, quell'incidente che ci separò, avrebbe potuto esserci qualcosa tra noi. Non siete mai stato sfiorato dall'idea della sopravvivenza dell'anima? Oh, io in realtà ho sempre pensato, da ateo, che dopo la morte non ci fosse nulla se non la fama, che vedevo come una specie di sopravvivenza. Da bambino tenevo conciliaboli con lo Spirito Santo. Tu scriverai, mi diceva lui, e io mi torcevo le mani. Ma che cos'ho dunque, Signore, perché voi mi abbiate scelto? Niente di speciale. Ma allora perché me? Senza una ragione. Ma almeno ho una certa facilità nello scrivere? No, per niente. Ma Signore, se sono così nullo, come potrei fare un libro? Applicandoti. Chiunque allora può scrivere libri. Chiunque. Ma sei tu quello che ho scelto. Era uno stratagemma comodo. Mi permetteva di proclamare la mia insignificanza e nello stesso momento di venerare in me l'autore di capolavori in anni successivi e di scrivere. Io sono ciò che dico, l'ha detto Heidegger, ma in fondo lo dite anche voi. Esprimersi fa parte della possibilità di essere questo o quello per gli altri. E l'altro è necessario. È lui che dà senso al linguaggio. Il problema del linguaggio è analogo al problema dei corpi. Dall'amore alle parole. E dalle parole all'amore. Un giorno mi proponeste: facciamo un contratto. Restiamo insieme a Parigi per 2 anni. Poi andiamo all'estero e ci separiamo per 2 anni. E poi ci ritroviamo da qualche altra parte del mondo per riprendere una vita più o meno in comune per un altro periodo. Non avremmo mai dovuto diventare estranei. Mai uno sarebbe mancato all'appello dell'altro e niente avrebbe prevalso su questa alleanza, che però non doveva mai degenerare né in costrizione né in abitudine. In seguito però rivedemmo il nostro patto. La nostra intesa era diventata più stretta, più esigente. Poteva adattarsi solo a brevi separazioni, non a vaste scappate solitarie. Mia zia mi ha sgridato perché vi frequento. Le ho detto che mi aiutate per il diploma, ma lei insiste che non devo fidarmi di voi. Vive coniugalmente con Simone de Beauvoir, mi ha detto, e nessuna donna gli resiste. Ti comporti come una canaglia, piccola Martine Bourdin. In fondo sei tu a provocare gli uomini dicendo: fatemi andare avanti, signore. È vero, ma voi mi piacete. È diverso con voi. E allora, mio bel castoro, amore mio delizioso, le ho detto: tu mi piaci. Hai scatenato la mia brutalità, il che è raro perché io ho il sangue piuttosto povero. Non posso farti false promesse. Sei arrivata nella mia vita come un cane tra i birilli. Ho voluto prenderti senza avere di te il minimo bisogno, il che per te è anche molto più lusinghiero. Ho da regalarti 3 giorni. Prendiamoceli. Proviamo a farne qualcosa di bello. Ignobile discorsetto, ma con abilità da tucidite, ha fatto meraviglie. Un istante più tardi era tra le mie braccia. Ho l'impressione che avesse voglia di chiedermi di salire da lei, ma ho rifiutato di accorgermene perché non voglio andarci a letto. Me ne avete scritto a lungo e più volte. La storia non è finita quella sera. No, no, no. Le ho detto che certo, le ho parlato di voi, di Tania, una storia che avevo iniziato poco prima, che voi conoscevate. Le ho detto che certo ero innamorato di lei, ma che nella mia vita per lei non c'era posto. E lei stava a sentirmi col cuore stretto e ogni tanto interveniva. Sapevo già tutto. Non c'è bisogno di sottolineare. Amore mio, mio bel castoro, non avrò molto tempo per dirvi tutte le dolcezze che penso di voi se voglio raccontarvi il seguito di questa storia. Sappiate intanto che vi amo moltissimo. Ma sentite quello che capitò con la piccola Bourdain. Dunque, lei si era messa a tenermi il broncio col pretesto che io le avevo detto di essere innamorato di lei. Ci siamo rivisti la sera dopo e io l'ho trattata molto male. A questo punto lei mi è caduta fra le braccia e mi ha incitato a portarla da me, cosa che ho fatto. Ci siamo strapazzati senza una sola parola, il che rende più facile il resoconto di questa notte. Salvo il coito, ho fatto tutto. A letto è una delizia. Adrenatica goccia d'acqua, più sviluppata in basso che in alto, bellissime gambe, un ventre muscoloso e assolutamente piatto, non ombra di seno, nell'insieme un corpo morbido e delizioso. Una lingua come uno zufolo che si snoda all'infinito, ti carezza le tonsille, una bocca piacevole come quella di Gegè. Nel complesso sono contento da far paura. Ha voluto dormire tra le mie braccia, così non ho chiuso occhio. Al mattino mi ha guardato con aria franca. Io non sono gelosa di Tania. Per me non accetterei mai quello che tu le dai. Sono gelosa di Simone de Beauvoir. Vorrei stare con un uomo come voi state con lei. Lo trovo straordinario. Je ne sais pas pourquoi la pluie quitte là-haut ses oripeaux. Trovo la vostra lettera e vi rispondo. Vi amo. Ho una voglia furente di rivedervi, piccola bella, di parlare con voi, di coprire di piccoli baci la vostra cara faccetta nera da regina di Saba. Stamani, dopo 3 giorni e 3 notti, ho accompagnato al treno la piccola Martine. Me ne resta un ricordo un poco amaro per il fatto che nella mia vita non ci sia assolutamente posto per lei. È triste che si è messa ad amarmi con passione e ha voluto regalarmi la sua verginità. Non so bene se l'ho presa o no. In questa materia è consigliabile il dubbio. In ogni caso mi è parso un lavoro profondamente difficile e sgradevole. Voi direte che queste sono imprudenze. No, è tutto a posto. Lei è partita allegra e senza nessuna speranza. Mio bel castoro, vi amo veramente molto. Lontano da voi passo serate assurde, davvero contingenti. Lontano da voi misuro il niente della carne e non mi diverto molto. Vi abbraccio con tutte le mie forze. Nessun dolore poteva venirmi da voi, a meno che non moriste prima di me. E non vi scrivevo soltanto quelle lettere. Se la vostra sincerità si fosse limitata al campo del sesso, non avrebbe creato quell'intima comprensione che c'è fra di noi. Al massimo poteva fornirvi un tranquillo alibi. E anch'io provavo le mie emozioni, come voi le chiamavate. Avevo già più di 40 anni, un'età in cui mi sentivo relegata nel regno delle ombre per un certo tipo di amore. Ma anche se con il corpo lo accettavo, la mia fantasia non si rassegnava. Quando mi si offrì l'occasione di rinascere ancora una volta, fui pronta ad afferrarla. Era la fine di luglio e degli amici mi invitarono ad un pranzo. Tra gli ospiti c'era anche Lanzmann. La serata si protrasse fino a tardi. Al mattino il telefono squillò. «Vorrei portarla al cinema», mi disse. «Al cinema? A vedere? Non ha importanza». Esitai, ma sapevo che non dovevo rifiutare. 5 giorni dopo lasciavo Parigi, dritto sul bordo del marciapiede. Lanzmann agitava la mano mentre io mettevo in moto la macchina. Era successo qualcosa. Qualcosa, ne ero certa. Cominciava. Avevate ritrovato un corpo. Molta gente ha criticato i rapporti che abbiamo costruito tra noi. Non potevano tener conto della particolarità che spiega e giustifica quei rapporti. A che scopo, per esempio, abitare sotto lo stesso tetto quando il mondo intero era nostra proprietà comune? E le distanze mai avrebbero potuto separarci. Un solo fine ci animava a abbracciare tutto, dar conto di tutto. L'essenziale era scrivere libri di cui essere soddisfatti. Ma al di là dei libri, siete stata voi l'unica cosa che abbia mai contato nella mia vita. Quando vi ho conosciuto da giovanissimo, vivevate in funzione della posterità. Da giovanissimo volevo influire sulla realtà con la mia letteratura, come se si trattasse di un'azione politica. Ti chiami Bieta? Sì. Dov'è Ramon Gris? Non lo so. Alzati. Non era per farmi male, era una messa in scena, voleva dominarmi e trovava anche necessario mandarmi il suo alito putrido in faccia. A me veniva piuttosto voglia di ridere. Ci vuole altro per intimidire un uomo in procinto di morire. È la tua vita per la sua. Ti lasciamo salva la vita se ci dici dov'è. Allora? Hai capito? Io non lo so dov'è Chris. Credevo fosse a Madrid. Hai un quarto d'ora per riflettere. Se continui a negare, sarai fucilato all'istante. Ci sapevano fare. Avevo passato la notte in attesa e dopo ancora un'ora nella cantina mentre fucilavano Tony e Juan. Mi misi a riflettere. Era un eroe, ma non era per questa ragione che accettavo di morire al suo posto. La sua vita non aveva più valore della mia. Nessuna vita aveva valore. Io, o Gris, o un altro, era lo stesso. Lui era più utile di me alla causa spagnola, ma me ne fregavo della Spagna e dell'anarchia. Niente aveva più importanza. Eppure mi rifiutavo di denunciare Gris per salvarmi la pelle. Era comico. Tornarono da me. Ci hai pensato? Li guardavo come insetti di una specie rarissima. Sta nascosto nel cimitero, in un sepolcro oppure nella capanna dei Becchini. Volevo fargli uno scherzo. Volevo vederli alzarsi, affibbiarsi i cinturoni e mettersi a dare ordini con aria affaccendata. Se hai detto la verità, io non ho che una parola. Ma se ci hai preso in giro, la pagherai cara. Uscirono con fracasso. Pensavo alla faccia che avrebbero fatta. Me li immaginavo che sollevavano le pietre tombali e aprivano le porte dei sepolcri. Era di una comicità irresistibile. Un tribunale regolare deciderà della tua sorte. Credetti di non aver capito. Ma allora non mi fucileranno? Comunque non adesso. La cosa non mi riguarda più. Continuavo a non capire. Nel cortile c'erano un centinaio di prigionieri. Non pensavo di rivederti vivo. Mi avevano condannato a morte, poi hanno cambiato idea, ma io non so perché. Hanno preso Chris. Mi misi a tremare. Quando? Stamattina. È stato un coglione. Ha lasciato la casa del cugino martedì perché avevano avuto a che ridire. Non mancavano le persone che l'avrebbero nascosto, ma non voleva dover più niente a nessuno. Ha detto, mi sarei nascosto dai Bieta, ma l'hanno preso. Andrò a nascondermi al cimitero. Al cimitero? Tutto si mise a girare e mi ritrovai seduto per terra. Ridevo così forte che mi vennero le lacrime agli occhi. La guerra di Spagna vi aveva molto colpito. Voi non eravate nessuno, non avevate ancora pubblicato La nausea, ma non eravate il tipo che sta chiuso nella sua torre d'avorio. Anche voi. Eravamo estremisti, ma non facevamo niente. Per voi quelle cose contavano? Contano moltissimo, sono la vita quotidiana, quello che succede ogni giorno. E poi ci fu la rivelazione della lotta di classe, i vostri contrasti con i comunisti, la fondazione del movimento. Socialismo e libertà. Pensavo a un socialismo nel quale sarebbe esistita la libertà. Le vostre opere rimanevano comunque la cosa più importante. Lo pensavo. Ma adesso le cose più importanti a quest'età sono a vivere, fumare, la bellezza di quest'autunno dorato. Credete di aver commesso degli errori? Non essermi impegnato veramente a fianco di certe persone quando avevo l'età per farlo. E nelle diverse stagioni della vita, quali rapporti avete avuto con la vostra età? Nessuno. Finché c'è stato un avvenire, l'età era la stessa. Non avete mai provato la sensazione «sono giovane»? Sì, ma era una sensazione latente. E poi, a partire dai 65-66 anni, non esiste più un avvenire. Sì, certo, l'avvenire immediato. Ma ormai avevo detto tutto quello che avevo da dire. E adesso? Ci sono momenti in cui vivete il presente per se stesso, non soltanto come un progetto, una pratica di vita, un lavoro. Sì, al mattino, quando mi sveglio e voi non ci siete ancora, e vengo a sedermi sulla poltrona in terrazza e guardo il cielo, vivo un momento di perfetta letizia e sono soltanto questo, una persona che guarda il cielo del mattino. Il fatto di non credere in Dio vi ha dato qualche vantaggio? Ha garantito, purificato la mia libertà. Io non ho bisogno di Dio per amare il mio prossimo. Voi e io abbiamo vissuto senza preoccuparci di questo problema. Non credo che abbiamo dedicato molte conversazioni all'argomento. No, mai. Tuttavia abbiamo vissuto. Ci siamo interessati al mondo. Abbiamo cercato di capirlo. Si sta facendo fresco. È sera ormai. Guardate, c'è la luna. Da bambino avevo un po' paura della notte. La luna rassicurava. Quando uscivo in giardino e c'era la luna sulla mia testa, ero felice. Non poteva succedermi niente. Questa morte, comune a tutti, ciascuno l'affronta da solo. Si può morire insieme o vicini, ma morire è scivolare fuori dal mondo, in un luogo dove la parola insieme non ha più senso. La cosa che più desideravo al mondo era di morire con chi amavo, ma pur coricati cadavere contro cadavere, non sarebbe che un'illusione. Tra nulla e nulla non c'è legame. È finita. Con gli occhi chiusi mi ha stretto il polso e poi mi ha detto: mio piccolo castoro, vi amo molto. Poi mi ha offerto la bocca e io l'ho baciato sulle labbra e sulla guancia. Si è riaddormentato. Queste parole, questi gesti insoliti in lui, si inscrivevano nella prospettiva della morte. È finita. Aveva l'aspetto di sempre, ma non respirava più. Alle 5 vennero gli infermieri, avvolsero il corpo di Sartre in un lenzuolo e lo portarono via. Tu, Silvia, avevi comprato degli abiti per andare all'opera. Gli misero quelli quando lo esposero nell'aula dell'ospedale. Appariva calmo, come tutti i morti, e come la maggior parte di essi privo di espressione. Al funerale c'era una folla immensa che aspettava al cimitero di Montparnasse, circa 50.000 persone, quasi tutte giovani. Io non vedevo niente. Mi dicevo che era esattamente il funerale che Sartre desiderava e che lui non l'avrebbe saputo. Le ceneri di Sartre furono portate al cimitero di Montparnasse. Tutti i giorni, mani ignote, depongono sulla sua tomba piccoli mazzi di fiori freschi. Ci separa la sua morte. La mia morte non ci riunirà. È così. Ed è già bello che le nostre due vite abbiano potuto, tanto a lungo, procedere all'unisono. Mio piccolo castoro, vi amo molto.